Letture di Radio 24. Le immagini dalla Libia stanno invadendo TV e giornali. Gli inviati le catturano e poi le trasmettono. Ma in molti casi sembra che lo spettatore o il lettore questa guerra non solo la guardi dall'esterno, ma che addirittura ne faccia parte. Ferdinando Camon, su Avvenire, spiega il fascino maligno delle guerre moderne. Dalla mattina presto, quando leggiamo i giornali, alla sera tardi, quando guardiamo l'ultimo TG, più volte al giorno entra nel nostro cervello il fascino maligno della guerra. Gli inviati della stampa e delle TV lo catturano e ce lo trasmettono, e noi lo guardiamo incantati. Perché un fascino della guerra esiste, a prescindere dal fatto che la condanniamo o no. La guerra è un luogo e un tempo in cui viene esercitato il potere di vita e di morte. Si mostrano alle fotocamere e alle telecamere del mondo le meravigliose invenzioni e costruzioni della tecnica aeronautica e navale. Si dispiega davanti a noi lo spettacolo della paura e del trionfo. Perciò la guerra ci rende peggiori, tutti, perché ci abitua al male. Mi correggo, ci educa al male, dispiegandolo davanti a noi come un meraviglioso spettacolo estetico. La guerra del Golfo fu un trionfo dei missili. Partivano dalle portaerei lasciandosi dietro una scia di fuoco che non era rossa, ma verde-gialla. Li vediamo anche qui nella guerra di Libia, ma stavolta siamo preparati. Il fascino delle portaerei americane, non della nostra, piccola al confronto, sta nella vastità. Per far notare al telespettatore questa attrattiva, le telecamere riprendono le portaerei dal basso, salendo dal mare. Quando giungono in linea con le piste di decollo, la plancia delle portaerei ci si spalanca davanti come una piazza. Stavolta non vediamo mai i missili arrivare. In Iraq li vedevamo, cioè vedevamo i palazzi sussultare, segno che un missile era arrivato. Stavolta è più emozionante la visione degli aerei. Impariamo a distinguerli dalla sagoma. Il Tornado è il più tozzo, il più snello è lo Eurofighter. Un F-15 americano è caduto, non sappiamo se per avaria o perché tirato giù dalla contraerea. I bambini libici ballano sulla carlinga aggrovigliata, sui motori sbrindellati. I vestiti dei bambini e i motori dell'aereo sono due opposti, arcaicità e modernità. Mentre scrivo questo articolo, guardo sul monitor la foto di 6 soldati libici che camminano stagliandosi contro le fiamme di un incendio, come i Marines nel finale di Full Metal Jacket. Che siano libici, lo si capisce dal caricatore arcuato del Kalashnikov. Lì deve essere caduto un missile, c'è ancora il rogo. Par di sentire lo scoppio delle raffiche. I libici sparano assurdamente in aria, per gioia. Un soldato della NATO che sprecasse i colpi così finirebbe agli arresti. Arrivano le prime foto del dopo bombardamento. Macerie, tronconi di caserme, spezzoni di bunker, tutto avvolto nel fumo. Par di sentire l'odore delle esplosioni. «Mi piace l'odore del fuoco», dice Robert Duvall in Apocalypse Now. «Sa di vittoria». Il ruolo superumano nella guerra è quello degli strateghi, curvi sulle carte geografiche. I media regalano a noi questo ruolo. Ogni mattina i giornali ci dispiegano sotto gli occhi la carta delle operazioni. Vediamo le navi. In alto nel cielo è disegnata la sagoma di un aereo, uno per tutti. È un IFA. Prima di voltar pagina, ci fermiamo per controllare se la disposizione delle forze è tatticamente corretta o se ci convenga spostare qualcosa. Il fascino maligno della guerra, droga sui lettori spettatori che si credono generali ed ammiragli. Nel delirio non guardano la guerra, la combattono. E questo è l'estremo e più dannoso risultato della fascinazione maligna della guerra. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ferdinando Camon, Spettatori, anzi combattenti, il fascino maligno della guerra, dall'Avvenire di domenica 27 marzo. Sulla base di migliaia di dati raccolti dall'ONU, è stato possibile stilare la graduatoria dei 5 paesi più sicuri al mondo, ovvero quelli maggiormente risparmiati da catastrofi naturali e umane. Qualche sorpresa e alcune certezze sui primi posti della lista nera, occupata stabilmente da Etiopia e Bangladesh. Tsunami e disastro nucleare in Giappone, terremoto in Birmania. Eruzioni di vulcani nelle Filippine e in Islanda, e poi incendi e siccità estive, alluvioni autunnali, cicloni. Esisterà un luogo sicuro su questo inquieto pianeta? ci sono luoghi più protetti di altri? Un giornalista, Jeremy Singer Vinn, ha consultato l'International Disaster Database, catalogo che raccoglie oltre 11.000 grandi catastrofi naturali e tecnologiche, gestito dal Centro Belga per la ricerca sull'epidemiologia dei disastri, e ne ha ricavato le nazioni che dagli inizi del Novecento ai giorni nostri sono rimaste più indenni da inondazioni, siccità, terremoti e disastri vari. Estonia, Qatar, Bahrain, Emirati Arabi Uniti e Andorra sembrano essere i luoghi più sicuri sulla faccia della Terra. Ai primi posti della lista nera compaiono quasi sempre nazioni come l'Etiopia e il Bangladesh. Una curiosità. Per l'International Disaster Database, la catastrofe naturale più grave in Italia, a partire dal XX secolo, è stato il terremoto di Messina, 75.000 vittime, seguito dal terremoto nella Marsica del gennaio 1915, circa 30.000 morti. Sotto la categoria catastrofi naturali, l'International Disaster Database comprende anche eventi quali carestie, epidemie e incendi, attribuibili solo in parte al fato, alla volontà di Dio o del grande stregone, come diceva Henry Miller, ma parecchie volte anche all'insipienza del genere umano. La natura non è né buona né cattiva, e l'uomo spesso ci mette del suo, come spiegava Machiavelli nel Principe, nel capitolo in cui si chiede quanto possa la fortuna nelle cose umane ed in che modo se li abbia a resistere. Dice che la natura fa disastri, come un fiume che a volte straripa, ma noi possiamo cercare di limitarli, alzando argini. Rimedieremo noi, trasferendoci con Jeremy Singer Vinn nei paesi più sicuri. Qatar, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti non sembrano propriamente paradisi terrestri. Sotto molti punti di vista, compreso quello ambientale e politico. Andremo in Estonia? Bellissima. Per un italiano non sarà semplice mettersi in costume da bagno davanti al mare del Nord. O nel microstato di Andorra, sui Pirenei? Meraviglioso anche lì. Forse qualcuno morirà di noia. Altra bella catastrofe contemporanea. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Carlo Grande «Ecco i 5 paesi più sicuri del mondo» dalla Stampa di domenica 27 marzo. Ogni notte, Bruno Serato, cuoco veneto di San Bonifacio e titolare di uno dei più noti ristoranti della California, serve 20 kg di pasta a 300 bambini che altrimenti andrebbero a letto senza cena. Con questa opera di carità, il cuoco di San Bonifacio, trapiantato oltreoceano, è entrato nella classifica dei 20 eroi d'America del 2011, stilata dalla CNN. Carlos ha 10 anni, è nato in un motel di Anaheim, in California, e tuttora vive in quella stanza con la sua famiglia. È un motel kid, uno di quei bambini che crescono in una camera d'albergo, a un passo da sbandati, prostitute e alcolizzati, la fauna dei motel da pochi dollari. Carlos è uno dei 300 bambini salvati da Bruno Serato, 55 anni, l'italiano entrato nella CNN Top 20 Heroes 2011, la classifica che la CNN stila scegliendo le 20 persone che con il loro impegno cambiano il mondo. Nella lista degli eroi del 2011 c'è anche questo cuoco veneto di San Bonifacio che ha fatto fortuna oltreoceano. Ogni giorno Bruno Serato, titolare di uno dei ristoranti più in voga della California, l'Anaheim White House nella contea di Orange, serve 20 kg di pasta a 300 motel kids che altrimenti andrebbero a letto senza cena. Da 6 anni, con pochi clamori, alle 5 del pomeriggio accompagna in autobus i piccoli ospiti al Boys and Girls Club, un centro di solidarietà per minori in difficoltà, dove serve i suoi spaghetti al pomodoro. Prima di lui, il loro unico pasto era quello servito a scuola. Di sera, al massimo un sacchetto di patatine. Quando mia madre Caterina l'ha scoperto, mi ha detto «Non possono cenare? Bruno, preparagli tu una pasta asciutta», racconta Serato. Ogni sera lascia il suo ristorante amato da Gwen Stefani, Madonna, Jimmy Carter e George W. Bush per cucinare il pasto caldo più atteso da quei bambini. Finora ha servito 250.000 piatti di pasta, spendendo di tasca propria $2.000 al mese. Con la crisi i miei clienti sono diminuiti del 30-40%, ma ho acceso un mutuo per tenere in piedi la White House e aiutare i bambini. Le storie che ha incrociato sono tristi. La bambina bionda e pallida che è tornata a farsi servire un piatto di pasta per 3 volte nella stessa sera. O la bambina che ha trovato il padre fuori dal motel e le ha detto di andarsene e cavarsela da sola perché lui non aveva più soldi neppure per una stanza miserabile. Armando, a 15 anni, si è intascato il biglietto da visita e la promessa di Bruno. Voleva lavorare. Io gli ho detto di tornare a 18 anni. 3 anni dopo ha bussato al mio ristorante con quel bigliettino e io l'ho assunto in sala. Golosi di salsa al pomodoro, capricciosi davanti ai ravioli e agli spinaci. Di loro Serato si occupa con coscienza, attento al loro sviluppo armonico, fisico e mentale. Per la loro crescita spirituale, Serato ha una ricetta diversa. Ogni tanto li porto con me al ristorante, perché capiscano che la vita non è solo un motel o un centro d'accoglienza. La squadra olimpica di pallavolo e quella di hockey, clienti abituali della White House, ogni tanto vanno a trovare i motel kids all'ora di cena. Quando vedono quegli atleti rimangono strabiliati, allora io dico: «Vedete ragazzi, crescete in fretta, anche voi potete diventare campioni!» Qualche motel kid ce l'ha già fatta. Uno di loro oggi è un ricercatore di fama alla Oxford University. Questo premio della CNN lo dedico a tutti i motel kids d'America, a mia madre e all'Italia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Chef italiano tra gli eroi d'America» di Michela Proietti dal Corriere della Sera di lunedì 28 marzo.